La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori della 24, bentornati perché ascoltato anche Attenzione 2 stamattina con Alessandro Milan, 16:31 primi 20 secondi in diretta del Sud di Milano. Oscar Giannino vi ringrazia, vi saluta, vi dice subito di cosa parliamo oggi, non senza però avervi ricordato le due notizie che dominano di giornata tra le tante altre, però una che riguarda la politica interna, lo sapete, immagino, il marcia indietro a Roma di Berlusconi sul candidato Bertolaso. Bertolaso rinuncia, si era capito, non si capisce più cosa dovesse inventarsi Bertolaso per dire che non voleva essere più tirato in ballo come candidato, più che dire che avrebbe lavorato per qualunque altro sindaco avesse vinto. Era evidente che dopo questo balletto di mesi finiva così. E dichiarazione aggiuntiva di sostenere da parte di Forza Italia Marchini. Vedremo che cosa succederà, perché attenzione, Marchini si era presentato come l'uomo fuori dai partiti, quindi non so quanti residui voti di Forza Italia davvero si aggiungeranno a Marchini, se non siano inferiori rispetto a quelli che poi magari Marchini perde, perché alcuni diranno: ma come, ci hai detto che eri fuori dai partiti? Vedremo quanta parte residua dell'elettorato di destra romano a quel punto voterà invece la Meloni, che appare più coerente, non lo so, e vedremo se se ne avvantaggerà Giachetti, oppure se, come immagino io, allo stato attuale, ma vedremo la campagna elettorale, sarà Virginia Raggi 5 Stelle a incassare il maggior risultato, perché insomma l'operetta vista in queste settimane è stata una cosa altro che crozza. Questa è la prima notizia. La seconda notizia sono invece i 6 arresti che sono avvenuti stamattina in provincia di Lecco, su questo nucleo di sospettati di terrorismo jihadista che pare immaginassero attentati in Italia e che quindi sono stati assicurati alla legge, e c'è tutta una coda ovviamente di polemiche su questo. C'è stato anche uno scambio polemico tra Salvini e Renzi. Però io oggi volevo tornare su una questione di fondo dell'economia, delle banche, del debito pubblico del nostro paese, quindi vi dico subito, apriamo i microfoni ai vostri interventi all'800240024 e gli sms 349-238-6666, perché oggi con il nostro ospite, che chiamiamo spesso perché sta animando da mesi e mesi un'iniziativa per me dal punto di vista dell'informazione, della qualità dell'informazione, molto apprezzabile, per cui tutti gli dobbiamo gratitudine, che si chiama www.truenumbers.it, e lui è Marco Cubianchi, che oltre ad essere animatore di questo sito lavora per Panorama. Marco Cubianchi, grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Ecco, io ho chiamato Marco Cubianchi perché tra le tante cose, andate a vedere sul sito che batteria di numeri su tutti gli argomenti dell'agenda pubblica ci sono, sempre dichiarando le fonti, quindi i numeri il più possibile ufficiali, se non sono ufficiali c'è scritto sempre da dove sono tratti, per consentire a chiunque di voi di farvi opinioni libere, sì, ma partendo da dati che sono i dati reali, no? Che descrivono la realtà e i fenomeni. E con lui parleremo oggi di due questioni, e io però vi preannuncio, se volete intervenire, le mie due opinioni per sentire le vostre. I due temi sono questi. Primo, avete letto sui giornali in questi giorni le durissime reazioni in Italia alle parole pronunciate due pomeriggi fa a Roma da Weidmann, il presidente della Bundesbank. Il presidente della Bundesbank ha in buona sostanza ribadito che, a giudizio della Bundesbank, non è vero che i titoli del debito pubblico sono risk free, senza rischio, e che quindi le banche italiane, che ne hanno per molti miliardi, vedremo quanti, non devono prevedere un assorbimento di capitale a copertura del rischio, visto che ne hanno così tanti nel loro bilancio. I giornali italiani sono tutti insorti, per correttezza devo dire, compreso questo gruppo editoriale, Solo 24 Ore, dicendo che invece è fondatissima l'argomento italiano che i titoli del debito pubblico sono privi di rischio. Io penso il contrario, la penso come la Germania, e devo dire la verità, sono abbastanza incredulo nel vedere che anche le imprese italiane hanno abbracciato la tesi che va difeso il debito pubblico, che vi ricordo si è anche ritagliato un trattamento fiscale di totale vantaggio rispetto agli altri strumenti finanziari privati, visto che c'è la bellezza dei 7,5 punti nei confronti di alcuni di vantaggio per i titoli del debito pubblico, e poi addirittura di 13,5 punti per quelli che poi pagano l'aliquota del 26%. Quindi stiamo parlando di un debito pubblico che già è molto avvantaggiato nel trattamento fiscale, e che in questi anni, fine della mia prima opinione sul primo tema, ha dimostrato negli anni dell'eurocrisi che non è assolutamente vero che è privo di rischio. E assolutamente a un rischio valutato dai mercati, e se in questo ultimo periodo, grazie a San Mario Draghi, lo spread è 100 punti, poco più di 100 punti e così via, attenzione, perché se c'è Brexit alla fine del mese di giugno, si aprono 2 anni di trattativa nei quali poi si vota in Germania, in Italia, in Spagna, in Francia, eccetera eccetera, e un'instabilità che si può scatenare, vedrete, accetto scommesse, che a quel punto riporta l'Italia a ballare sui mercati. E visto che balla sui mercati il rendimento e quindi il prezzo sul mercato secondario dei titoli del debito pubblico, pretendere che siano previ di rischio, secondo me, è come sfidare la legge di gravità. Quindi io capisco la posizione tedesca che dica: scusate, se voi volete che noi finanziamo il pilastro, il fondo europeo comune a tutela dei depositanti, invece che ciascun sistema nazionale come attualmente oggi, questa è l'altra polemica italiana, beh, allora bisogna però fare in modo che in pancia alle banche quella quantità di titoli del debito pubblico sovrano del proprio paese di riferimento diminuisca, oppure se non volete un tetto alla sua diminuzione bisogna fissare dei coefficienti di rischio e di assorbimento dei capitali per le banche, da parte delle banche, se vogliono detenerne oltretutto in quantità così elevata. E questa è la prima questione. Voi pensate che abbia ragione il governo italiano e la Banca d'Italia a dire che bisogna considerarli privi di rischio, oppure pensate che invece c'è un rischio, e come nei titoli del debito pubblico? E questa è la prima questione. La seconda questione è: ma questa storia che l'Italia è così solida con il debito pubblico oltre 2200 miliardi che ha, è fondata oppure è infondata? Cioè, se andiamo a vedere l'attivo dello Stato, bisogna credere a chi dice che lo Stato italiano è totalmente solido, oppure invece bisogna dedurre il contrario? Ecco, io sono tra coloro che hanno molti dubbi da molti anni sul fatto che sia così solido rispetto a un debito così elevato lo Stato italiano, e quindi vorrei sapere anche se per voi siamo così davvero solidi, e anzi chiediamo ulteriore margine per fare altro debito aggiuntivo. Ieri c'è stato un grande convergere di maggioranza in Parlamento al voto che ha spinto al 2019 ulteriormente protrarre il pareggio di bilancio italiano. So che la maggior parte di voi è convinta che bisogna fare più deficit, più debito, più Stato. Io la penso al contrario. Ci sia l'euro o non ci sia, ve lo dico con grande sincerità, perché se non c'è l'euro dovremmo essere ancora più solidi piuttosto rispetto a quando oggi possiamo avere l'ombrello della BCE. Io la penso così. So che, a cominciare da Sebastiano Barisoni che mi segue, che mi invito a seguire anche oggi, la pensano all'esatto opposto, però ogni tanto preferisco ribadire che le mie opinioni forse sono fondate non su opinioni ma anche sui numeri, e quindi mi taccio con le mie opinioni, aspetto voi con le vostre telefonate, però sentiamo i numeri, e qui entra in campo Marco Cobianchi. Marco, iniziamo a ricordare i numeri che avete pubblicato sulla questione del debito pubblico italiano e degli attivi. Insomma, come in ogni bilancio patrimoniale, bisogna vedere quanto le passività sono in equilibrio rispetto alle attività. Ricordaci un po' i numeri, come stanno le cose? Allora, premesso che è vero quello che dici tu, cioè che se noi facciamo un conto di quanto sono le attività dello Stato, quindi il suo patrimonio, un asterisco importante, ovviamente in questo patrimonio non sono considerate le opere d'arte, quindi non c'è il Colosseo, ecco. Esatto. Immaginiamo che non si possa vendere la Fontana di Trevi, no? Quindi le attività lo immaginiamo ragionevolmente, perché ovviamente è così. Certo. Quindi immaginiamo soltanto, cioè calcoliamo soltanto le proprietà, che possono essere palazzi, appartamenti, caserme, insomma tutto quello che è contabilizzabile, diciamo così, in un bilancio, e quindi lo chiamiamo questo attivo. Siamo nella fine del 2014, gli attivi dello Stato erano 969 miliardi, sono in calo rispetto di poco rispetto al 2013, quando erano circa 1000. Nel 2014 sono 969. Ora parliamo delle passività. Le passività sono sostanzialmente il debito pubblico, più altri debiti di tesoreria che può avere il Ministero dell'Economia, piuttosto che dell'Industria, delle cose che ancora non ha pagato, dei contributi che deve ancora versare, eccetera. Quindi le passività complessive, sempre a fine 2014, sono 2.660 miliardi. Quindi più del doppio delle attività. Quindi in un'azienda ormai, in un SPA, cosa dovrebbe fare? Secondo me dovrebbe portare il libro in tribunale. Ma insomma, questi sono i fatti. Questi sono i fatti. Tu lo sai, qui entriamo nel fatto che mi interessano anche le tue opinioni, che a fronte di tutto questo in Italia da anni, da dopo il 2011, hanno iniziato a consolidarsi gli indirizzi di pensiero che dicono cari Giannino e cari Cubianchi, ma non raccontate fregnacce. Nella realtà il debito pubblico italiano è solidissimo perché innanzitutto è detenuto in quote crescenti da dopo il 2011 da intermediari, cioè famiglie e banche italiane. Quindi è un debito di noi con noi stessi, per così dire. E già su questo ci sarebbe da discutere, diciamo. Esatto. Dopodiché, naturalmente, in più, ma quando mai i default degli stati avvengono rarissimamente? Non è vero, perché ci sono fior di studi, cito solo due, quelli di Reinhard Rogoff, che studiano centinaia di casi di default e debiti sovrani negli ultimi 100-150 anni. Centinaia, perché il fallimento del debito pubblico avviene anche solo attraverso ristrutturazione delle sue scadenze, non è che si chiude bottega e si licenziano i dipendenti. Quindi è avvenuto in centinaia di casi, non è affatto infrequente, e anche questa cosa ha poi la sua importanza rispetto al rischio dei titoli di Stato, che sarà il secondo argomento su cui sentiamo i numeri di Marco Cubianchi. Il vero sottinteso di questi ragionamenti è che se ci fossero eventi davvero traumatici di attentato alla sostenibilità sui mercati finanziari del nostro debito pubblico, allora in quel caso ovviamente ne risponderebbe il patrimonio degli italiani. Questo è il sottinteso, caro Marco. Sì, no, esatto, no, esattamente. C'è anche un altro sottinteso, è un discorso che secondo me viene rivolto, questo che hai appena citato tu, viene rivolto soprattutto ai nostri creditori, sì, ai quali sostanzialmente diciamo, ma voi continuate a comprare i nostri BTP, i nostri titoli di debito pubblico, perché casomai, male che vada, questo patrimonio noi lo possiamo tassare, tanto ce l'hanno gli italiani, che volete che sia, oggi è il 12,5, lo portiamo a un'aliquota più alta e quindi insomma non vi preoccupate, continuate a comprare. Questo è un discorso, diciamo così, pericoloso subdolo, nel senso che quando lo Stato mi dice non vi preoccupate perché tanto gli italiani hanno un sacco di soldi risparmiati, ce li hanno in bot, insomma io mi preoccupo, cioè, o meglio io no, perché non ho debito pubblico in portafoglio. Nemmeno io. Tutti quelli che hanno comprato BTP, bot, eccetera, appena sentono una frase di questo genere dovrebbero almeno drizzare le orecchie, ecco. E chissà, invece sono riusciti a convincere moltissimi italiani che in quel caso dare il proprio oro alla patria sarebbe un gesto di strepitosa solidarietà. Basta con l'Europa, l'euro, torniamo alla sovranità nazionale. Il sottinteso tornare alla sovranità nazionale, cari ascoltatori monetari, è questo qua, cioè essere pronti a fare con il vostro patrimonio quello che tante volte negli anni 70 l'Italia fece con, per esempio, le riserve auree della Banca d'Italia, dovendo andare a chiedere moltissime volte al Fondo Monetario, a Washington, a Francoforte. Guarda, Oscar, metterei insieme le due cose che tu hai detto, cioè da una parte dicono non vi preoccupate perché tanto il risparmio degli italiani è enorme, per di più in BTP, e dall'altra dicono i nostri BTP sono senza rischio. Queste due frasi messe insieme, insomma, la prima è preoccupante, la seconda non è del tutto vero, perché è vero che nulla è senza rischio, anche perché non ho mai visto uno strumento finanziario trattato su un mercato che non sia rischioso, cioè non esiste in sé, non può esistere, perché il prezzo sarebbe zero. Esattamente, ovviamente. Esattamente. Se io vedo un foglio di carta e tu hai la certezza al 100% che verrai ripagato, allora il prezzo è quello nominale, non c'è nessun altro prezzo. E allora, abbiamo visto, cari ascoltatori, come stanno i numeri sulla prima questione. È solida l'Italia? A giudicare dal suo bilancio patrimoniale si direbbe di no, e che quindi non sono molto fondati i ragionamenti di chi dice è solidissima. E adesso, dopo un minuto di informazioni sul traffico, andiamo alla seconda questione. Ma quante titoli del debito pubblico di ogni paese hanno in pancia le banche italiane, ma anche degli altri paesi, ovviamente dell'euroarea? Bisogna fare un ragionamento complessivo per capire se Weidmann si inventi una storia quando dice no, dobbiamo fare in modo che sia tenuto conto del rischio dei diversi titoli sovrani e quindi che ci sia un assorbimento di capitale da parte delle banche, oppure se sia fondata la pretesa italiana che non hanno nessun rischio. A tra un minuto. La versione di Oscar. Allora, alcuni ascoltatori mi dicono: no, il debito pubblico è debito privato contratto verso l'estero. Oscar, anche tu compri prodotti tedeschi, altro che non hai debito pubblico. No, guardate, io debito pubblico dell'Italia non ce l'ho, né di nessun altro paese dell'euroarea. Attenti a chi vi racconta una storia di Target 2, per capirci, se questa è l'obiezione diversa da come stanno le cose. Perché quello riguarda le banche centrali e i sistemi bancari, ma mediati dalle banche centrali del sistema BCE. E quello non riguarda il mio debito, francamente, di cui io dovrei essere titolare. Non è così. Questa è una versione sovranista che vi raccontano di che cos'è il debito pubblico, naturalmente per motivarne il fatto che va ricentrato sull'Italia. Più è in mano degli italiani, meglio è. Certo, così vi fottono meglio, questa è la mia opinione. Allora, andiamo a vedere, perché voi avete pubblicato su www.trunumbers.it, ascoltatori andateci, perché vedrete quanti di queste utili scansioni numeriche trovate su moltissimi argomenti. Avete pubblicato un utilissimo dato che fa vedere i diversi sistemi bancari nazionali dell'euroarea quanti titoli del debito pubblico hanno e di chi in pancia. Ce lo puoi riassumere, Marco? Questo è un grafico molto interessante, davvero molto interessante, e la fonte è l'EBA, la European Banking Authority. Allora, l'EBA ha calcolato quanti miliardi di euro di debito pubblico hanno emesso i titoli dell'Eurozona e chi ha comprato questi miliardi di debito pubblico. Allora, si scopre una cosa interessantissima che ha stupito molto anche me, e cioè che sostanzialmente il debito pubblico di un paese viene comprato dalle banche di quello stesso paese. Ti faccio un esempio: nel primo semestre 2015 il primo emettitore di debito è stata la Germania, ha emesso 492 miliardi di debito pubblico, quindi di titolo di debito pubblico. La stragrande maggioranza di questo debito è stato comprato dalle banche tedesche, le quali hanno comprato in minima parte debito italiano e ancora in minima parte debito americano. Lo stesso vale per l'Italia. L'Italia nel primo semestre ha emesso 370 miliardi di debito. La stragrande maggioranza di questo è stato comprato dalle banche italiane. Ne ha venduto un po' ai francesi, un po' ai spagnoli, un po' ai tedeschi, ma diciamo l'80% l'ha comprato le banche italiane. Quello che mi ha stupito è questo, è il dato della Gran Bretagna. La Gran Bretagna ha emesso 200,8 miliardi di debito pubblico, e la stragrande maggioranza è stata comprata dalle banche inglesi, le quali comprano soltanto due tipi di debito pubblico, cioè comprano debito pubblico da due stati, soltanto da due stati, che sono la Gran Bretagna stessa e gli Stati Uniti. Non hanno un dollaro un euro o una sterlina di debito pubblico di altri paesi, solo di questi due. Lo stesso vale per le banche olandesi che comprano debito pubblico olandese, le banche spagnole comprano debito pubblico spagnolo, quindi il discorso è davvero interessante, perché ogni struttura bancaria di un paese sostiene il proprio paese. Non credo che lo faccia al fine di, diciamo così, non sono, secondo me questi numeri non dicono che le banche fanno scelte con ottica di redditività, cioè di guadagnare, esatto. Ma da questo punto di vista, se i numeri sono quelli, e sono questi perché sono, certo, ufficiali, sono quelli dell'autorità europea. Europea, esatto, autorità europea bancaria europea, vuol dire che la struttura bancaria, non solo quella italiana, questo è il dato che mi ha colpito, non solo quella italiana, sostanzialmente segue la politica fiscale del proprio paese. E questo è uno dei fattori, uno dei principali che ha visto in questi anni, dopo l'esplodere dell'eurocrisi del 2011, ha visto in realtà i flussi finanziari tra sistemi bancari cross border all'interno dell'euroarea riaccentrarsi sugli intermediari nazionali. E sì, esatto, il drive, esatto, fondamentale, esatto, è rappresentato esattamente dall'assorbimento di titoli del debito pubblico. Ora, naturalmente, capite che una volta che noi abbiamo chiarito questo, cioè come funziona davvero, l'argomento tedesco che dice sì, però se immediatamente mettiamo in atto un fondo di tutela comunemente finanziato, come nei patti dell'Unione Monetaria, dice, ma con sistemi che sono bancari nazionali pieni di tantissimi titoli, no? Stiamo parlando di 400 miliardi di euro di debito sui 2002 di debito pubblico del nostro paese in pancia al sistema bancario italiano, significa avere immediatamente aperto a una condivisione del rischio, visto che i titoli sono prezzati diversamente come rischio sovrano, e sono prezzati ogni giorno diversamente come rischio sovrano. Per questo io dico che la PES come Weidman, a me sembra un'osservazione oggettiva, fattuale, fattuale, non so come dirvi, è fattuale. Sì, è oggettivo, scusa ti interrompo, ma è assolutamente oggettivo, cioè è veramente la palissiana, no? Che è il fatto che, diciamo così, è una di quelle cose che non si possono dire, è una grande convenzione. Ma perché non si possono dire? Solo perché sono i tedeschi a dirlo? Ma non è che se un pentagono è un tedesco mi dice che è un pentagono ed è un pentagono, io dico no, non è un pentagono. Sì, no, ma io guarda che sono d'accordo con te, ma tu prova a immaginare se il ministro Padoan in un momento di debolezza si lasciasse sfuggire la frase sì è vero, i titoli e il debito pubblico di tutto il mondo sono rischiosi. Prova a immaginare che cosa potrebbe succedere a un paese come il nostro. E cosa potrebbe succedere? Che lo Stato italiano sarebbe costretto ad adottare politiche di bilancio tali da diminuire nel tempo in una maniera credibile e sostenibile, non significa 100 miliardi meno ogni anno, il suo debito, cioè il suo deficit annuale. Questo significherebbe, cioè meno tasse e meno spesa, cazzo. È vero quello che tu dici, certo che queste cose sono quelle cose che tutti sappiamo, ma non mi aspetto che un ministro del tesoro lo dica. Ma non mi aspetto che lui lo dica, ma che io veda tutti i giornali italiani che lo ripetono, questo inizia a preoccuparmi, perché vuol dire che ci raccontiamo delle... Su questo sono d'accordo, cioè, è sempre la corsa al debito pubblico. Ho capito, cioè noi diciamo ai nostri ascoltatori o lettori, ragazzi siate felici del fatto che state sostenendo l'argomento per cui verrete tassate di più, con la scusa che in realtà non si rischia niente. Ma francamente io prima di dire una cosa simile dico, ma ragioniamo cari amici, perché nel frattempo questo significa questo asserbimento di risorse, anche se senza assorbimento di capitale di patrimonio di vigilanza da parte delle banche, significa che comunque loro impegnano un centinaio di miliardi in titoli di debito pubblico, invece che per esempio in titoli di imprese private oppure in titoli a maggior rendimento senza eccedere, però che migliorano il conto economico delle banche. Non è che possiamo far finta di non vederlo, cioè non è gratis il sostegno al debito pubblico italiano, come invece vi dicono tutti, oppure la stragrande maggioranza. Sentiamo un po' come la pensano alcuni dei nostri ascoltatori. Marco dalla provincia di Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora, io volevo dire questo. È vero, noi traiamo dei vantaggi sicuramente rispetto a tutte le problematiche del debito sui tassi particolarmente bassi. No? Stiamo pagando, paghiamo meno che gli Stati Uniti, meno della Gran Bretagna, quindi è dobbiamo così. Fare i salti mortali. È vero. Però io dico questo, se non fosse così, che senso avrebbe incamminarci in un sentiero in cui gli amici tedeschi trovano tanti vantaggi sulla competitività, perché il nostro paese rispetto all'uso per esempio dell'inflazione, all'uso di vecchi strumenti, che comunque sono vecchi ma sono di politica monetaria tra le valute, che vantaggio avremmo noi ad accettare i vincoli, i lacciuoli, l'imbavagliamento del sistema industriale italiano? Ma l'imbavagliamento secondo lei viene dall'euro o era cominciato prima? Perché sa questa storia che la scarsa produttività italiana nasce da 10 anni prima. L'imbavagliamento viene da una cosa, che il nostro sistema, in particolar modo con l'esplosione della crisi economica, ha accettato passivamente la visione confindustriale, che era questa: le colpe del degrado del sistema produttivo sono del fatto che siamo il fatto alt è caduta la linea? No, adesso sembra che l'abbiamo censurato. No, ragazzi, bisogna risentire. Pronto? Aia, no, questo mi dispiace perché è casuale. E vediamo se riusciamo a risentirlo. Intanto Alessio da Milano. Buongiorno Oscar. Eccoci. E volevo ringraziarvi per quel sito che avete... True Numbers. Sì, perché l'ho già postato anche sulla mia pagina Facebook, adesso lo posterò. Io ho anche una pagina politica che si chiama Votali Ancora su Facebook, una pagina pubblica dove raccolgo notizie sostanzialmente. E queste sono notizie, quelle di True Numbers e Marco Cobianchi e la sua squadra che vanno, secondo me, ringraziati, sono notizie. Poi ognuno può avere le sue idee, però lì ci sono numeri, fatti e servono per appunto alimentare poi le opinioni. È tornato il nostro ascoltatore, allora riprendiamo. Sì. Ecco, grazie. Stavo dicendole, la crisi e la pesante perdita di produttività del nostro sistema industriale è partita non con la crisi del 2007, alle radici nel fatto che le grandi imprese hanno voluto con la delocalizzazione liberarsi del sistema delle filiere, che era quello che aveva fatto vincere fino, o perlomeno andare avanti, o sperare di vincere il sistema italiano. Guardi, scusi. Il sistema delle filiere. Le filiere, i 400 miliardi di export, le facciamo con le filiere. 6.000 imprese, 7.000 del quarto capitalismo in testa, 40.000 che esportano tra il 30 e il 40% in filiera, e poi ce ne sono altre 150.000, in totale 200.000 che esportano non oltre il 15% del loro revenue, del loro fatturato. E come se non ci sono le filiere? Mi perdoni, ma non c'entra niente col debito pubblico, l'euro e così via. Comunque, eravate in tantissimi. Io ringrazio Marco Cobianchi. Appuntamento all'8:15 di mattina con la mia Alessandro Minati, Antenna 2.